Alleluia, buongiorno a tutti voi. Buongiorno, sono un po' confuso. Sono venuto per ascoltare e sto per predicare. Guardo il palco e c'è Selene. Guardo la platea, c'è gente della mia chiesa. Dove siete? Facciamo un applauso, sono qua. Però sono veramente felice, grazie Pastore Mirko, è un onore essere qui su questo palco. E sono felice, anche sono abbastanza emozionato perché per la prima volta sono qui con, so che adesso mi odierà, ma fa niente, tanto è l'età giusta, con mia figlia Alice che è qua con me. E so che non interessa in questa conferenza sapere, ovviamente non è sposata perché... Però sono qui anche con Erika, io non vedo bene, che è lì. E poi sono Dalia e Emanuel. Dalia e Emanuel sono i responsabili di adolescenti. Quando c'è qualcosa che proprio non va nella... Se momenti tristi nella chiesa, io penso, ti viene da piangere, magari perché stai vivendo qualcosa di difficile, io penso sempre, però io ho Dalia e Emanuel. E piango ancora di più, ma non perché piango, perché sono due persone eccezionali. Sono appena sposati da un mese, facciamo un applauso anche a loro. E poi c'è Lorenz, che ogni tanto si fa vedere a queste parti, penso che ormai lo conosciate. Ho dimenticato qualcuno della nostra chiesa? No, penso che siamo noi. E poi ci sono altri della Chiesa Gesù Vive. E voglio soltanto dire che c'è qui anche Laura, che è mia cognata, che è una delle persone responsabili della Chiesa Gesù Vive, il pastore Angelo Scannapieco. Dove sei Laura? Che io non... Ah, qua. Ti nascondi. Stiamo viaggiando insieme. E poi tutto il resto del team della Gesù Vive. Va bene. Sono in imbarazzo perché mi hanno detto che il gilet non è di moda, quindi questo lo tolgo, va bene. E poi questa conferenza mi ha liberato da un grosso problema che avevo, perché da un grosso complesso, perché io sono cresciuto tutti siamo cresciuti. Io sono cresciuto con la voce di mia madre che mi diceva: metti dentro la camicia. Con la voce di mia sorella che mi diceva: metti dentro la camicia. E con lo sguardo di mia moglie, che stamattina non c'è, che è uno sguardo ancora più... Io la tirerò fuori prima della fine, metà, perché... Io ero già avanti 20 anni fa, ero già nella moda, e c'è un'altra cosa, io ve lo dico adesso e sto profetizzando, c'è un'altra cosa che mi dicono sempre di tirarmi indietro i capelli: tra 20 anni sarete tutti con i capelli avanti, ma io già c'è. Alleluia. Allora, tiro indietro i capelli, che sennò mi viene in mente, ho l'angoscia dello sguardo dei miei cari che mi dicono: mettiti a posto, mettiti in ordine. Il tema di questa conferenza, venga il tuo regno, c'è un versetto dal quale voglio iniziare, che è in Marco capitolo 4, proprio nel dono che ci è stato fatto come pastori, c'era proprio questo riferimento a questo versetto, Marco capitolo 4, al versetto 30 dice: disse ancora: a che cosa paragoneremo il regno di Dio? Con quale parabola lo rappresenteremo? Esso è simile a un granello di senape che, quando è seminato in terra, è il più piccolo di tutti i semi che sono sulla terra, ma dopo che è stato seminato cresce e diventa il più grande di tutte le erbe e mette rami così grandi che gli uccelli del cielo possono ripararsi sotto la sua ombra. E con molte parabole di questo genere annunciava loro la parola, come essi erano in grado di capire. E non parlava loro senza parabole, ma in privato ai suoi discepoli spiegava ogni cosa. È stupendo questo versetto, questo passo, questa parabola, questo piccolo aneddoto che Gesù racconta per farci capire che il regno di Dio è come un piccolo seme. Infatti ci è stato donato questo contenitore con questi semi. Sono semi, giusto? Io ho interpretato giusto. Perché il regno di Dio È così. Sapete, in questa conferenza è stato raccontato anche di esperienze molto veloci, no? Di questa coppia pastorale che ha avuto un successo incredibile, straordinario. In 4 anni, 5 anni hanno fatto quello che, a volte scherzando, dico, non so se in tutta la vita io riuscirò a realizzarlo. Però dobbiamo ricordarci che il regno di Dio, Gesù ha detto, non è un prefabbricato comunque. Cioè, questa è la loro esperienza straordinaria, bellissima. Però è anche vero che sicuramente c'è stato un lavoro dietro che non è stato facile, possibile neanche spiegare velocemente, e che Gesù ha detto che il regno di Dio è come un piccolo seme. Scherzando, ho chiesto il permesso a mia figlia, quindi, perché noi abbiamo 3 figli e quando sei pastore usi molto gli aneddoti di casa, finché una volta una di loro mi ha detto: non mi piace che racconti in chiesa tutto quello che succede. Poi c'è la legge della privacy, insomma, tutte queste cose qua. Quindi o dici c'è una persona che abita a casa mia, sei comunque coperto, non succede niente, non può essere denunciato. O se no chiedi il permesso, e ho fatto firmare prima la liberatoria. Una volta, scherzando, anch'io lo facevo quando ero ragazzo, mi ha ricordato quando io andavo a scuola, no? Mi ha detto, c'è stato un momento in cui l'insegnante stava per decidere chi interrogare e in quel momento ho detto, Signore, torna adesso, venga il tuo regno adesso. Rapiscimi ora. A volte abbiamo questa sensazione, no, che il regno di Dio possa essere qualcosa che bam viene improvvisamente. Anche la preghiera, no, del Padre nostro, venga il tuo regno, bam, e venga lì. In realtà anche lì la preghiera, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, è perché Gesù sta dicendo, quando pregate, quando state per chiedere qualcosa, prima di tutto mettiti in linea con il cielo, affinché quello che tu stai per chiedere combaci con quello che sono i pensieri di Dio. È una premessa meravigliosa a tutta la nostra vita, perché Dio ha deciso che il regno venga attraverso di voi, attraverso di me. Attraverso che cosa? Le mie richieste, le mie parole, le mie azioni. Quando Dio ha creato Adamo ed Eva, ha dato loro un mandato, gli ha detto coltivate il giardino. Coltivare vuol dire proprio far crescere, coltivare. Cultura, fare, non è soltanto, già vi siete addormentati, ho detto cultura, non è una, vuol dire tirar fuori, lavorare, perché Dio ci ha creato, sapete, quando Dio ha creato tutto il mondo, nei primi, ogni volta diceva, è buono, è buono, è buono. Quando poi ha creato Adamo ed Eva, in quel giorno lui ha detto, molto buono. Buono è una parola ebraica, tob, vuol dire, non implica soltanto buono, ma conveniente, prezioso, bello, interessante, significativo. Noi abbiamo una chiamata e un'abilità sulla nostra vita che è straordinaria, venga il tuo regno, vuol dire noi abbiamo l'abilità di prendere il bello che Dio ha fatto e farlo diventare molto bello. Questo significa venga in tanti, può significare tante cose, ma questa mattina voglio darvi questo concetto. Venga il tuo regno. Io, Fabio, non il pastore Fabio, dico proprio io, Fabio, come persona, come genitore, come lavoratore, come persona che è in questo mondo, ho la chiamata, l'autorità, la responsabilità, la vocazione e la responsabilità di prendere quello che Dio ha fatto che è buono e farlo diventare molto buono, bello, molto bello. E Dio ritiene che questa cosa tu sia in grado di farlo. Ti ha creato apposta. Ti ha scelto. Quante volte, che cosa implica il concetto di scegliere, di scelta? Quando tu vai in pizzeria, scegli una pizza. Quale scegli? La più buona. Se sei a dieta è un problema. Però la più buona, quella che ti piace di più. Finché andavi con i tuoi genitori, quando eri bambino, sceglievano loro, ma poi scelgo quello. Vai in un negozio a comprare vestiti, scegli quello che ti piace, quello che tu indossandolo, avete un esempio straordinario, indossandolo ti renda più bello, comunque renda onore a ciò che sei, non è che metti su una cosa, questo è proprio brutto, e scegli, il concetto di scelta implica il concetto di bellezza. Quando Dio dice, Dio ti ho scelto, è perché sei bello per i suoi occhi. La prima scelta quando è stata? Quando Adamo ed Eva hanno peccato, Adamo ha preso la prima foglia, così. Eva, questa è una vecchia battuta, però Eva, spogliato il giardino. Metto questa, no, non mi piace, metto quella, questa. No. Dio è sceso, ha detto, ma dove siete? Sono combinato, non c'è più niente qua. Perché il concetto di scelta implica il concetto di bellezza. Quando tu vai in un negozio, tu vuoi scegliere quello che ti piace di più. Ma hai notato che quello che ti piace di più è quello che... Anche a voi! Allora fanno apposta! Tutto a un euro, poi prendi... Eh no, quello... 99,90. Però Dio non ha limiti. Dio è entrato, cercate di... Cioè lui vi ha pensato, immaginato, nella sua infinita possibilità, nelle sue infinite. Lui non è soltanto quello che va a comprare, lui è l'ideatore, il sarto, colui che ha creato, colui che apprezza. Lui in tutte le sue infinite possibilità, lui era, doveva scegliere qualcuno che potesse, ascoltatemi bene, due cose importanti, che fosse in grado di apprezzare la sua bellezza e che fosse in grado di riprodurre la sua bellezza. Lui, infatti, lui, la parola di Dio dice che la Chiesa è la sposa. La sposa è la gloria del marito. Lui ritiene che tu sia il suo l'abito che gli dona meglio. Lui, nell'infinite possibilità, lui ha pensato a te e ha detto... E lui è la mia gloria, nel senso che io sono la sua gloria, ma lui non mi fa sfigurare, lui è colui che può apprezzare, ti ha creato in maniera tale che tu possa apprezzare, gustare le sue infinite qualità e che tu possa lavorare questa terra affinché dia, produca, venga il tuo regno, venga la tua bellezza, venga la tua santità, venga la tua... In tutto quello che tocco io posso fare questo, lo riconosco e lo posso riprodurre nel mio matrimonio, nella mia famiglia, con i miei figli, con la mia chiesa, nel mio lavoro. Nessuno mi può impedire di produrre, perché il regno di Dio è come un piccolo seme, è stato seminato, io sto traboccando di tutto questo. Alleluia. Venga il tuo regno. E Dio ritiene che tu, lui ti ha creato perché... E ha creato me, ha creato l'uomo perché potesse entrare. Mi collego un po', per chi di voi c'era alla predicazione dell'anno scorso del pastore Pilavaci, lo dico giusto, sì. Lui quando parlava diceva entrare in questa danza tra Padre, Figlio e Spirito Santo, entrare in questa relazione in cui il Padre dice questo è il mio figlio nel quale mi sono compiaciuto, il figlio trova il diletto nel padre, noi abbiamo, a differenza di qualunque altro essere vivente, noi abbiamo questa capacità, degli animali, noi abbiamo questa capacità di apprezzare, di gustare. E perché Dio ama stare con noi? Perché è come uno che produce vino, gli piace quando c'è l'esperto che sa apprezzare il suo vino. Se lo fai bere a me, io, buono. Poi me ne dà un altro che magari è una schifezza e dico buono e capisce, questo non capisce niente. Ognuno di noi è specializzato in qualcosa, ma tutti noi uomini, esseri umani, uomini e donne, siamo specializzati perché Dio ci ha ideato così per gustare Dio. Il salmista diceva, salmo meraviglioso, dice una cosa ho chiesto all'Eterno, quello di dimorare nella sua casa e di contemplare la bellezza dell'Eterno. Perché noi siamo creati per poter gustare la bellezza dell'Eterno. Wow! Gustarla e riprodurla. Venga il tuo regno. Da bello a molto bello. Da buono a molto buono. Certo che dobbiamo riconoscere che la terra è buona, che la vita è bella. Che la vita è buona. Voglio far vedere alcune immagini. Vediamo se ci aiutano dalla regia, ci possono aiutare. Alcune immagini, ma adesso voglio farvi Ah, penso, chiedo perdono a Vito, io non sono un grafico, quindi ho fatto quella foto così, ero in giardino, ho fatto quella foto, non è che pensavo poi di essere qua, che mi dicevi di predicare qua, se no cambiavo tovaglia, mettevo quella nera, era una cosa mia. Poi tu mi dici, predica, va bene, però questo... Allora, so che state pensando che sono delle olive, ma sono delle piccole prugne. Nel seme c'è tutto quello, notate che nel seme... Dentro c'è il seme, c'è tutto ciò che serve per tutto il suo sviluppo. Quando Dio ha detto in Genesi molto buono, non è che la terra fosse già, il piano di Dio che cos'era? Che Adamo ed Eva coltivassero il giardino, che il giardino crescesse e riempisse tutta la terra. Venga il tuo regno. Voleva, lui era convinto, questo era il progetto, che Adamo ed Eva coltivassero il giardino, coltivassero e tirassero fuori, elaborassero, perché nell'origine c'era tutto ciò che serviva, come un seme. Se guardiamo l'immagine dopo, una cosa che forse avete già tante volte, diciamo questo, cioè in quel seme, in quella prugna c'era già l'albero. Quando Dio ha detto molto buono, non perché fosse già tutto realizzato, ma lui già vedeva l'albero. Lui già vedeva la sposa, lui già vedeva la terra ripiena, tutta la terra è piena della gloria di Dio. Un'altra traduzione dice tutta la pienezza della terra è la gloria di Dio. Tutto nella terra deve risplendere, essere un riflesso, un'interpretazione della bellezza di Dio. Amen. Voglio farvi vedere un'altra immagine. Che effetto vi fa questo gatto? Fatevi sentire. Perché? Cosa vi ha fatto questo gatto? Lo conoscete? Io non ho mai avuto gatti. Carie sì, ma gatti no. C'era un'antica pubblicità, mai avuto carie in vita mia. Ma gatti, se io porto un gatto a casa mia, viviamo fuori casa, io e il gatto, quindi... Faccio vedere l'altra immagine. Ma sapete, questo è un gatto antipaticissimo, è così lo sguardo, ma non è... Vi faccio una domanda, perché questo gatto vi crea questa reazione, questa foto, questa immagine? Perché è carino, per lo sguardo? Sì, ma perché? Cioè, perché deve provocarmi questa reazione? Io non lo conosco, sto gatto, non... Che cosa trova in te? Cosa trova dentro di te questo? Cosa provoca? È che questa immagine trova corrispondenza dentro di te. Noi siamo creati per la tenerezza. E quando c'è qualcosa fuori che risveglia questo, oh, faccio vedere un'altra immagine. Che alcuni di voi il gatto proprio non interessava, l'ha preso il bambino. Oh, ma che ne sai questo bambino, il carattere che ha, che cosa farà nella vita? Però oh, fai vedere l'altra immagine. Quello che c'è fuori, non so se tu la corrispondenza è con quella a destra o quella a sinistra, però quello che c'è fuori trova corrispondenza in qualcosa che è dentro di noi. Dentro di noi. C'è un'altra immagine ancora? Sapete che non vi dice niente questa immagine? A me dice tantissimo. Questa è casa mia. A me e a mia figlia dice tanto. Mia figlia sarà inorridita perché ha detto che foto. Ho fatto questa foto perché prima di tutto non sapevo di dover venire qua a predicare, tu non discorsi prima. Era una cosa nostra. Però quelli sono i giochi di mio figlio che mette in ordine alla fine, vedete? Il mio iPad che ho detto non mi serve, lo lascio a casa. Il televisore che dopo qualche mese è fulminato perché un fulmine ha beccato casa, però per me quello ha un significato, perché è casa. Ogni volta che parto non vedo l'ora di tornare a casa, perché casa è casa. A meno che non sia via con la mia famiglia, perché casa è dove c'è la famiglia, non è la struttura in sé. E c'è stata una volta che sono tornato a casa, torno sempre a casa, perché quella volta sono tornato a casa, ho aperto porta e ho detto grazie Signore perché è bello, ho detto bello essere a casa. Però ho sentito questa voce dentro di me che diceva: non hai ancora visto casa. Io ho detto: aspettiamo ancora un po'. Però il senso è casa. Anche casa è un riflesso di qualcosa di celeste, di qualcosa che avremo. Per me questo ha senso perché mi corrisponde, perché trova qualcosa dentro di me. Trova qualcosa dentro di me, mi fa stare bene. E quando noi andiamo alla presenza di Dio, c'è qualcosa che trova corrispondenza dentro di noi, perché noi è da lì che veniamo. Per capire qual è il tuo futuro devi andare all'origine, al seme. Infatti Gesù è l'alfa e l'omega. Quando capisci da dove arrivi, capisci il destino, il compimento, la realizzazione. Venga il tuo regno. Ma devi guardare all'origine per capire che c'è già tutto scritto lì. In principio è già tutto scritto. Il salmista diceva: tu hai già scritto ogni giorno che tu hai preparato per me. Ma dobbiamo avere gli occhi sull'origine, perché il mondo ci distrae, i problemi ci distraggono. E noi, qual è la nostra chiamata? Rendere bello il mondo. Venga il tuo regno, venga la tua bellezza, ovunque vado. Io sono un dispenser di bellezza. Brutto dispenser, però faccio fiorire la bellezza di Dio. Fai vedere l'altro, mi ricordo se è già... Wow! Non so se lo vedete, se riusciamo a spegnere magari le luci qua. Giusto un attimo che poi io dopo non ci vedo. Ok, questa è la volta celeste. Non vi fa sentire... Trova corrispondenza dentro di voi. Ogni tanto noi torniamo, quando torniamo a casa la sera tardi, tutti i giorni, e noi viviamo un po' in campagna e quindi c'è a volte un po' di buio. E mia moglie mi dice: wow, ma le vedi le stelle? No, sono miope. Però vi dico, va bene, ci credo. Dico, dopo vado su YouTube e le guardo. Oh, è la verità. Però, allora ci mi fermo e guardo e vabbè, pensando a YouTube immagino. Però... una cosa mi è successa straordinaria. Settimana scorsa, non so se te l'ho detto sul giornale, non c'era scritto che ho portato mio figlio, però è successa una cosa. Sono andato, ho portato mio figlio agli allenamenti di calcio e come tutti i padri ero rinchiuso sulla tribuna lì a aspettare che finissero. Però a un certo punto, non so se avete detto sul giornale, è successo che proprio nella zona di Varese un asteroide è entrato nell'atmosfera e lì si è visto benissimo. Cioè noi eravamo lì, siamo rimasti tutti a bocca aperta. Chi diceva che era un drone, c'era chi poi dopo abbiamo capito che era. Però a vedere, era ormai il tramonto quasi, quindi si è visto benissimo questo asteroide che è passato. No, Wun non l'ha fatto, quella macchina che c'è. Però quando vedi le stelle, vedi la grandezza. Perché trova corrispondenza dentro di noi? Perché ci fa? Perché tu e io siamo creati per la grandezza. Però Dio ogni tanto ce le deve ricordare, quindi ha creato le stelle per ricordarti. Con Abramo cosa ha fatto? Ha preso Abramo e ha detto: vieni a guardare un po' le stelle, contale, vedi se riesci a contarle, così saranno, sarà il numero della tua discendenza. E lui ha iniziato a contarle. Uno, due, tre, quattro, cinque. Aveva capito, questi sono i miei figli. Sara era un po' preoccupata quando è arrivata a 99. 99 figli. Però lì è iniziato a capire una cosa, che forse non erano solo figli, quindi una cosa molto bella, che quella era forse una discendenza. Infatti in Giovanni poi Gesù dirà, Abramo ha visto il mio giorno e si era allegrato e ha giubilato. Che cosa intendeva dire? Che a un certo punto Abramo, seguendo il piano di Dio, il sogno di Dio per la sua vita, e Dio che lo ha risvegliato attraverso la grandezza delle stelle, a un certo punto ha capito, no, ma forse queste sono discendenze, ed è arrivato a capire, a vedere che seguendo il piano di Dio, i desideri di Dio nella sua vita, i sogni di Dio nella sua vita, lui sarebbe arrivato a Gesù. Come i magi che seguono la stella e arrivano a Gesù. Sapete che quando noi seguiamo, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, quando veramente prendiamo del tempo per ascoltare quello che Dio ha da dirci e seguiamo quella passione che Dio ha messo dentro di noi, noi rendiamo bello il mondo e stiamo andando verso Gesù, perché è lì che ci porta. Non abbiate paura dei desideri che Dio mette dentro di voi. Non abbiate paura di far fiorire il regno che c'è dentro di voi. Non abbiate questo timore, perché è meraviglioso. È meraviglioso. Prima di andare all'ultima immagine, quindi rimaniamo un attimo qua, c'è un passo che amo tantissimo, molto famoso in Deuteronomio. A un certo punto Dio dice, io ho messo davanti a te la vita e la morte, il bene e il male, la benedizione e la maledizione. Scegli la vita affinché tu possa vivere. Credo che ci siano due punti importanti perché noi possiamo portare, far fiorire il regno. Prima di tutto questo, Chiesa, scegli di vivere. Qualunque sia la tua situazione, scegli di crederci. Scegli di non lamentarti, perché lamentarsi è come già morire, ma scegli di credere di essere chiamato alla grandezza. Non importa qual è il tuo punto di partenza, credici, portala a compimento, provaci. Qualcuno ci vuole far credere che l'importante è vincere. Dal punto di vista di Dio l'importante è provarci, vivere, uscire dai nostri limiti, dalle nostre paure e provarci. Troppi giovani neanche ci provano nelle cose, perché? Perché hanno paura di fallire. Oppure vedono se stessi troppo piccoli o troppo incapaci, neanche ci provano. Io ti dico, guarda, anche solo provarci significa vivere. È straordinario, perché poi magari non ce la fai in una cosa, ma poi la strada prende un'altra curva, vai in un'altra direzione, ma stai vivendo. Stai vivendo. Fai fiorire il regno di Dio che è dentro di te. Provaci. Vivi. Scegli la vita. Notate che prima di questa frase dice, io ho preso a testimoni il cielo e la terra, che io ho posto davanti a te la vita e la morte. Quella ho preso a testimoni il cielo e la terra significa non puoi accampare scuse, tutti sanno che in ogni momento, anche nei momenti più difficili, tu puoi scegliere di vivere. Tu puoi scegliere la bellezza, tu puoi scegliere di far fiorire il regno che è dentro di te, tu puoi scegliere di fare un gesto gentile per le persone intorno a te, tu puoi scegliere di dire buongiorno anche a chi è maleducato con te, tu puoi scegliere di sorridere, nessuno può impedirtelo. Paolo dice ai Galati 5:22, no, il frutto dello Spirito è amore, pace, gioia, gentilezza, e poi c'è un versetto subito dopo che non leggiamo mai, dice contro queste cose non c'è legge. Cosa significa? Nessuno può venirti a criticare se decidi di essere gentile, buono, di credere, di avere autocontrollo. Non c'è legge contro queste cose, né non c'è, non, puoi farlo perché dipende da te. Tu puoi far fiorire il mondo. E poi c'è, non voglio leggerlo, la conosciamo tutti, anche perché devo andare a casa, c'è un'altra storia bellissima che è quando Gesù parla ancora e dice il regno di Dio è simile e dice un padrone che va in un viaggio e lascia dei talenti, dei soldi, in base alle capacità, notate che le capacità non sono i soldi che gli dà, le capacità dice in base alle capacità di ciascuno, ciascuno di noi ha delle possibilità, Dio sa quali sono le tue caratteristiche e ti dà delle opportunità per poterle mettere in pratica. Prima vi ho detto, prima scegliete di vivere, e la seconda, scegliete di rischiare. Con quella parabola Gesù ci sta dicendo: guardate, piuttosto sbagliate, ma fate qualcosa, rischiate. Lui ci ha detto che la cosa migliore, erano i più bravi, sono stati quelli che hanno preso quello che avevano, le opportunità, e in base alle proprie capacità, non ti paragonare con altri, ma in base alle proprie capacità hanno provato a fare qualcosa. Io sono convinto che anche se avessero perso i talenti, ma Gesù li avrebbe comunque premiati perché ci hanno provato. Ma il fatto è che, perché dici, ma Gesù non ha fatto così? Perché quando ci provi comunque ci guadagni. Quando provi, quando rischi, quando ti metti in gioco, comunque c'è un guadagno. Anche sbagliare è un'opportunità per imparare. E notate che alla fine paragona quello che non si è messo in gioco e dice: questa persona, i primi sono buoni e fedeli, servi. L'altro dice: è come se fosse già all'inferno, non stai vivendo, hai scelto la morte e non stai già vivendo adesso in una condizione di morte spirituale. Alleluia. Due cose importanti: scegli sempre la vita e accetta il rischio, così noi faremo fiorire il mondo. Voglio farvi vedere l'ultima immagine, poi pregheremo un attimo insieme. Questo non è stato fortunato come il pruno di prima, cresciuto in un giardino protetto. Ma vi piace questa foto? Vi piace vedere quell'albero? Perché? Perché comunque ci dà un senso di ammirazione. Perché, pur essendo nato in un postaccio, ma proprio in questo paese dovevo nascere, ma io proprio in questa famiglia dovevo nascere, ma io proprio in questa generazione, ma proprio durante la crisi, ma io proprio... Sì. Però vi assicuro che per Dio questo albero non ha niente da invidiare all'altro. Perché ci ha provato. Perché è storto ed è bello che sia storto. È bello che abbia spaccato, ci abbia messo di più, non lo so, però è una bella storia da raccontare in cielo. Alleluia. La cosa più triste, secondo me, quando vedere più giovani che non hanno, e forse poi se non l'hai fatto da giovane, magari diventi grande e la pensi ancora così, non hai accettato di essere nato, di essere quello che sei. Quella è la più grande tristezza. Accetta ciò che sei, accetta dove sei, non lo puoi cambiare, quello non lo puoi cambiare, è il tuo inizio. Però almeno stai giocando, te la puoi giocare. E Dio non ti premierà confrontandoti con l'altro albero, Dio ti premierà e ti sosterrà e ti guiderà perché stai vivendo e stai rischiando. Questi semi, se rimangono qua, è un bel gadget, possiamo dire, ma non succede niente. Perché succeda qualcosa, qualcuno li deve seminare, e poi loro devono fare una cosa che Gesù ha detto straordinaria parlando di sé, sempre nel Vangelo di Giovanni, ha detto: se il seme non muore, se il seme non accetta di uscire dal quello che è per rischiare e provare qualcos'altro, non porterà niente. E così il seme deve morire a se stesso, morire a quello che è, i suoi pensieri, le sue sicurezze, e iniziare a fondare le radici. Cioè, non sa che cosa troverà, ma in lui c'è tutto ciò che serve per vincere, per vincere, per vincere. Amen. Possiamo alzarci in piedi? Alleluia. Alleluia. Alleluia. Venga il tuo regno. Venga il tuo regno. Venga il tuo regno. Gesù vuole. Dio vuole. che il suo regno venga, e infatti ha creato te affinché attraverso di te il suo regno possa manifestarsi, possa riempire la terra di bellezza. Alleluia. E quindi, mentre ci prepariamo ad adorare il Signore insieme, ho due domande per ciascuno di noi. La prima è questa: hai scelto di vivere? Hai scelto di dire sì al luogo dove ti trovi, alla condizione che stai vivendo, alle situazioni difficili forse che stai vivendo? O ti stai solo lamentando, stai solo aspettando che un miracolo cambi tutta la situazione? Il regno di Dio è un piccolo seme, e il primo seme è proprio questo: dire: Signore, ci sono, io voglio vivere, va bene, sono qui, ti ringrazio perché mi hai fatto nascere, mi hai dato vita, grazie perché mi hai creato e mi hai scelto. Tu ritieni che io sia la persona ideale per gustarti, per ammirarti, per vederti, per godere la tua presenza, e tu credi che io sia la persona ideale per riflettere la tua bellezza, il tuo pensiero, il tuo regno ovunque vado. Io accetto. Perdonami se fino adesso ho fatto finta di niente, se fino adesso ho pensato che tutto quello che ascoltavo andava bene per gli altri ma non per me. Ma io oggi ho capito che sono creato per la grandezza, creato per la grandezza, cioè per gustare la grandezza e per vivere la grandezza. Non sono escluso dalla tua tavola. Alleluia. Alleluia. E la seconda domanda è questa: sei pronto a rischiare? Sei pronto a dire la tua, anche quando gli altri non sono d'accordo? Sei pronto a correre la gara che Dio ha posto davanti a te, anche se forse cadrai, ti farai male, ma sei pronto a provarci? Sei disposto a provarci? Sei disposto a dire sì a quel sogno che Dio ha messo dentro di te, anche se sembra così difficile? Sei pronto a rischiare? Questa è la parola più bella, a rischiare. Dio ti sta accordando il permesso di sbagliare, ma è felice quando ti vede indaffarato, entusiasta a fare qualcosa. Ti devi svegliare al mattino con quella voglia di dire che oggi devo cose importanti da fare. Sono un rappresentante del regno. Oggi facciamo fiorire il regno. Alleluia. Mentre adoriamo il Signore, vorrei che facessi girare un po' dentro di te queste domande. Poi vediamo come lo Spirito Santo ci guiderà. Però vorrei che ciascuno di noi preparasse la propria risposta personale, ma sincera e vera. Amen. Alleluia. che la tua vita forse non è stata semplice, forse stai vivendo momenti difficili, un lutto, separazione, forse il divorzio, una malattia, qualcosa che ti sta bloccando fisicamente, e vedi questo come un qualcosa di brutto nella tua vita. Ma Dio ti sta invitando ancora oggi a crederci ancora, perché la tua storia diventerà un bellissimo albero, diventerà una storia meravigliosa. Non fermarti. Il Signore oggi sta invitando, lo sento molto forte dentro di me, sta invitando alcuni di voi a rialzare la testa e dire: è soltanto un po' piegato il mio ramo, il mio albero, ma io ci credo ancora e andrò ancora verso il sole, e alla fine sarà un'immagine straordinaria, perché Dio ha dichiarato sulla mia vita che Lui ritiene che la mia persona, la mia vita, la mia storia sia degna della sua gloria. Lui mi ha scelto. Alleluia. Alleluia. Non mi ha scelto perché è perfetto, ma mi ha scelto perché, alleluia, sono suo figlio e Lui è in grado di ristorare, Lui è in grado di colmare, Lui è in grado di consolare. Chi di noi oggi riprende il cammino e dice: Signore, è per me, chiedo semplicemente di alzare la tua mano, di alzare la tua mano, e alzando la tua mano già la tua vita sta cambiando, alzando la tua mano già la situazione sta cambiando. Alleluia, perché Dio ti ha scelto, perché Dio ritiene che tu sei bellissimo, perché Dio si identifica in te, perché tu sei identificato in Lui. Alleluia, perché Lui scambia la sua forza con te, perché non c'è nulla che possa fermare il regno di Dio. È un piccolo seme, oggi è stato gettato un piccolo seme, ma diventerà grande, grande, grande, grande, grande, grande. Ditelo: grande, grande, bellissimo, straordinario. Alleluia, Dio si riveste di me, io mi rivesto di Lui. Alleluia, io sono scelto, sono chiamato da parte di Dio, sono scelto per gustare la sua presenza, gustare il suo essere, gustare le sue qualità, e per riflettere ciò che Lui è, per espandere ciò che Lui è. Io rendo il mondo bello, dillo, io rendo il mondo bello, sono chiamato a rendere bello questo mondo, perché la vita è bella, ma io la rendo molto bella, perché la vita è buona e io la rendo molto buona. Non mi lascio influenzare da questo mondo, non è vero che è brutto, non è vero che è tutto da buttare via, no, è bello, il regno di Dio è bello e noi lo facciamo diventare molto bello. Alleluia! Dillo a qualcuno: io lo faccio diventare molto bello, io sono bello, ma devo diventare ancora più bello, buono, significativo. Alleluia! Alleluia! Io dico spesso questo alla Chiesa: se io dovessi scrivere tutto ciò che secondo me è desiderabile per la mia vita, ma e lo potessi scrivere sinceramente, senza sbagliarmi, senza essere preso da falsi pensieri, se io scrivessi tutto ciò che è desiderabile per la mia vita, alla fine ci sarebbe soltanto un nome: Gesù. Perché in Lui c'è tutto ciò che è desiderabile, tutto ciò che in Lui è desiderabile è bello, è straordinario, è stupendo, è amabile, è glorioso. Alleluia. Però ascoltatemi, afferratelo questo, afferratelo, perché è stupendo. Sapete perché Gesù è così straordinario? Perché Gesù dentro di sé è Dio. Però è stupendo perché è stato espresso nella forma più bella che per noi è comprensibile: un uomo. La bellezza è questo. Il significato più bello, più grande, espresso in una forma straordinaria. Noi. Perché questo è il nostro mondo. E tu, metà del lavoro c'è. Sei un uomo. Sei una donna. Non paragonarti a me, io sono bellissimo, però sei un uomo. Ora lascia che c'è quello che c'è dentro di te, il significato più grande, la bellezza più grande, si esprima. Il tuo corpo, il tuo essere uomo e donna, non è un limite, è ciò che Dio ti ha dato per esprimere il suo regno.